Salve a tutti, io sono Jasmine, questo è Radio Big World e benvenuta ad una nuova puntata di Curiosità Animate dove vi parlo dei classici Disney. Oggi in realtà non parleremo di un classico Disney in specifico, ma di una compagnia che è stata molto importante per la Disney e che inizialmente non è nata sotto l'azienda della Disney. Infatti questa compagnia è la Pixar. La Pixar nasce negli anni 70 da una divisione dell'azienda di George Lucas, ovvero la Lucasfilm, specializzandosi in computer grafica e nella realizzazione di effetti speciali per vari film. Verrà poi acquistata nel 1986 da Steve Jobs, che chiamerà la compagnia definitivamente Pixar, decidendo di focalizzarsi specificatamente nell'animazione. Lo studio durante questo periodo realizzerà alcuni corti in 3D. Il più famoso e vincitore di un Oscar come miglior cortometraggio animato è Luxo Junior, che vede come protagonista delle lampade da scrivania, che saranno poi il simbolo della Pixar. Nel 1991 la Disney si interessa al lavoro della Pixar e decidono di collaborare insieme alla realizzazione di un film, ovvero Toy Story, che uscirà nelle sale nel 1995. Il lungometraggio vede come protagonisti dei giocattoli, proprietà di Andy, un bambino che predilige particolarmente Woody, che è un pupazzo a forma di cowboy. I giocattoli di Andy sono particolarmente in ansia per il compleanno del bambino, perché sanno che verranno probabilmente rimpiazzati da altri giocattoli. Woody cerca di tranquillizzare il gruppo, ma le previsioni si avverano. Andy riceve Buzz Lightyear, un astronauta super accessoriato che diventa velocemente il suo preferito. Woody si ingelosisce e in tutti i modi cerca di sbarazzarsi di Buzz, addirittura finendo nelle grinfie del terribile Sid, un teppistello che maltratta tutti i suoi giocattoli. Ma alla fine i due riescono a fare pace e a vivere tutti insieme felicemente. Il film, molto semplice a livello di storia, è stato importantissimo per la Pixar e per la Disney, dato che ha incassato 361 milioni di dollari e vinto varie Academy Awards, permettendo alle due aziende di suggellare questa unione professionale per altri 10 anni. Grazie per avermi seguito, io sono Jasmine, questa era Radio Big World e ci vediamo ad una prossima puntata di Curiosità Animate.